balla, balla, ballerino, tutta la notte al mattino, non fermarti. Balla su una tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Balla, non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina. Giorno, balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta, quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani, ferma con quelle tue mani il treno, Palermo Francoforte, per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino. Occhi verdi che sembrano di vetro, corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Per tutti i violenti, veloci di mano e coi coltelli, accidenti. Se capissero vedendoti ballare, di esser morti da sempre, anche se possono respirare. Sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto. E stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo.